Ho giocato sempre con la vita, ma sono nata io con la camicia. Sono andata via, via da casa mia, da ragazza e non ci torno più. Quello che ho fatto è un fatto che riguarda me, come quel fiore che è venuto su da sé, arrabattandomi qua e là, al vento freddo di città, con dentro al cuore inciso un motto, libertà. Ma un giorno poi l'amore lo scovai, due occhi azzurri più del mare io trovai. Mi innamorai, innamorai. Nella mia stanza in alto lo portai, tutte le mie canzoni gli cantai. Piano mi spogliai, piano si spogliò, poi mi prese tutto e me cambiò. Mi addormentai e quando mi svegliai lui mi guardava e allora forte lo abbracciai. Mi innamorai, innamorai. Io mi dicevo non giocare anche con lui, oh. Non è una storia senza storia, invece poi su di noi, e tu cambiarla no, non puoi, con una strada che non porta dove vuoi. Fortunata io ci sono nata, è una sera d'inverno io mi alzai e lo lasciai.